Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata, anzi buona birra a tutti, perché oggi l'argomento è la birra, è la via italiana alla birra, diciamo una via che sempre più sta crescendo, si sta imponendo nel mondo, addirittura i 350 birrifici artigianali italiani esportano all'estero, esportano anche in paesi che sono stati da sempre la patria della birra. Insomma, questo fenomeno delle birrifici, dei microbirrifici nato negli Stati Uniti negli anni 70 si è davvero molto sviluppato in Italia. Addirittura abbiamo una via italiana che è una via a una birra fatta con prodotti in molti casi territoriali, insomma la nostra forza, il territorio e i prodotti del territorio sono la nostra forza e anche sulla birra esprimiamo questa realtà. E allora faremo anche un giro dell'Italia per andare a scoprire delle birre appunto con delle grosse peculiarità. Ma iniziamo perché in queste ore è in atto a Milano l'Italian Beer Festival e abbiamo con noi l'organizzatore, però lo chiamiamo Paolo Polli come presidente dell'Associazione Degustatori Birre, ma prima di tutto il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666, così tutti diciamo gli appassionati, e sono tantissimi, possono intervenire. Buongiorno Polli. Buongiorno anche a te. Senti, volevo chiederti, esiste veramente tu come diciamo degustatore una via italiana alla birra? Bah sì, in questo momento stiamo cercando di addirittura coltivare orzo, luppolo e tutto, farla diventare proprio una birra prettamente italiana con materie prime nostre. Quindi diciamo che in futuro saremo autosufficienti, insomma non dipenderemo più dalla Germania o da altri paesi per avere le materie prime. Sì, ci vorrà ancora un pochino di tempo, ma la strada è questa. Ecco, ma la caratterizzazione della birra italiana, si può dire che è una caratterizzazione localistica, un po' come sono i prodotti tipici del territorio? Beh, cerchiamo di valorizzare i prodotti tipici, come dicevi tu, anche a Montegioco, no? Che usano le pesche di Volpedo, e una birra che fa un grandissimo successo un po' dappertutto, quindi questo è importante, valorizzare i nostri prodotti e le nostre birre. Ecco, appunto, di prodotti territoriali, come dico, abbiamo con noi Nicola Perra, dalla Sardegna, birrificio Barley, e fa una birra con la sapa di Cannonau. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti voi. Bene, lei oltre a usare diciamo la sapa di Cannonau, quindi un vino più tipico della Sardegna, forse il più tipico, ci sono altri prodotti che del suo territorio utilizza appunto per produrre la sua birra, che ha vinto anche premi a livello internazionale molto importanti tra l'altro? Sì, oltre appunto alla BV10, dove utilizzo la sapa di mosto di uva, quindi è un mosto cotto di uve Cannonau, ho altre due birre che vengono fatte con altre due ricette di malti diverse e altri due uvaggi utilizzati per fare la sapa. Una è il Nasco, che è appunto normalmente un vino liquoroso tipico della nostra zona, proprio del Cagliaritano, e l'altra invece è una sapa di uve Malvasia di Magomadas, un piccolissimo paesino nella provincia di Oristano. Importante, importantissimo Magomadas. Sì, infatti le uve, diciamo che quella zona è proprio strafamosa per la Malvasia di alta qualità, e infatti le uve di Malvasia ci vengono fornite da una piccolissima cantina proprio di Magomadas, cantina Zarelli, che fa delle ottime malvasie. E infine un'altra birra che si chiama Zagara, che è fatta con un'aggiunta di miele d'arancio, d'apicoltura biologica di Ales, piccolissimo paesino, provincia di Oristano, fornita da Luigi Manias, che è grande, il grande re del miele. Grandissimo re del miele, lo saluto se fossi in ascolto, Manias. Esatto, è una persona tra l'altro di una cultura immensa, non solo per quanto riguarda il miele, infatti ci troviamo molto spesso a parlare di tutto tranne che di birre di miele, molto spesso, perché la sua biblioteca, con la sua biblioteca strafamosa. Esatto, bene, esatto. Grazie a Nicola Perra. Abbiamo Eugenio da Modena. Buongiorno Eugenio, radioascoltatore. Buongiorno Davide. Prego. Niente, io ho telefonato perché visto l'argomento della trasmissione di stamattina mi faceva piacere parlare del nostro progetto che abbiamo in provincia di Modena di sperimentazione di luppolo autoctono. e noi abbiamo messo in campo circa 40 varietà di luppolo italiano selvatico, più o meno trovato dalla Calabria alla Valle d'Aosta in tutto il territorio italiano, e abbiamo un progetto di una durata di 3 anni per adesso, che ha l'obiettivo di andare a identificare appunto e caratterizzare delle varietà che si spera possano diventare buone per la produzione birraria. Bene, allora ho capito, tu sei Eugenio Pellicciari, questo di questo progetto, bene, sì. Famoso, ormai famoso. Bene, grazie Eugenio, quindi anche il luppolo italiano probabilmente avremo, quindi avremo veramente tutti i prodotti. Paolo Polli, un'ultima battuta, bene, Italian Beer Festival oggi, quanti sono le birre presenti? Sono 200 birre con la presenza dei birrai, abbiamo iniziato ieri e via, oggi bene. A mezzogiorno fino alle 2 del mattino, tutti agli Stand Studios bene. A degustare le birre buone. Grazie a Paolo Polli, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666, sentiamo Roberto dalla provincia di Livorno, buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Prego. Guarda, io volevo intervenire molto brevemente per dire una cosa. Io ho lavorato per qualche tempo all'Università della Birra e ho potuto vedere però una cosa, un'ombra, diciamo, dell'Italia, sì? Che è la preparazione, diciamo, dei gestori dei locali, che onestamente fanno molta poca cultura birraia. Quindi sono molti birrifici sparsi per l'Italia, alcuni sono anche molto fantasiosi e bravi, però trovano veramente poco terreno fertile per quanto riguarda i locali, e di conseguenza la gente ha veramente pochissima cultura birraia. Bene, Roberto, la ringrazio. Questo è veramente un ballon d'essai che lanciamo su questa trasmissione. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Chi volesse intervenire su questo argomento è ben accetto. Il gastronauta. Abbiamo sentito questo appunto secondo me molto interessante, appunto birre molto buone, eccellenti, però di solito i microbirrifici poi al banco non fanno cultura. Questo diciamo è stato un nostro radioascoltatore, ma io ho altri sms tra cui buoni, alcuni si lamentano dei prezzi delle birre artigianali, quindi questo è un secondo tema che affronteremo perché so che è un tema molto sentito soprattutto dai giovani, di cui vorrei anche ricordare che oggi non si produce solamente tanta birra made in Italy, ma si fa tanta birra anche a casa. Molti giovani appunto hanno cominciato ad autoprodurre la birra fatta in casa, quindi se qualcuno volesse intervenire per raccontare la propria storia, benissimo. Anzi, io devo dire che le storie anche di questi produttori di vino, di birra, sono tante, perché molti di questi, diciamo, birraioli o mastri birrai sicuramente prima facevano un altro mestiere. Questo è un altro aspetto molto interessante. Bene, continuiamo. Abbiamo con noi Agostino Arioli. Agostino Arioli, birrificio italiano, io devo dire uno dei pionieri della birra artigianale italiana. E allora proprio a Agostino voglio rivolgere questo punto. Agostino, ma è vero che si produce dell'ottima birra ma si fa poca cultura nei banchi dove si beve? Ma innanzitutto ciao Davide. Sì, credo che ci sia un problema. È nato tutto in Italia dalla produzione e quindi la cultura, la passione e la cura che cerchiamo di mettere in produzione deve pian piano arrivare lungo la filiera anche al publicant, cioè a chi gestisce il locale, ma ancor prima addirittura a chi distribuisce le birre, perché anche quella è un anello importante della catena, per arrivare in fondo ai consumatori, per quanto i consumatori finali oggi sono abbastanza informati, chiedono molto. Sono gli anelli intermedi forse i più deboli della catena. Bene, questo è un argomento che continueremo perché sicuramente vedo appunto altri sms, ma sentiamo Claudio da Pesaro, un radioascoltatore. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego Claudio. Volevo far presente alcuni aspetti da consumatore accanito per aver passato metà della vita in Repubblica Ceca, dove ho degli uffici e delle attività, e frequento la fabbrica Pilsner Urquell perché dormo costantemente di fronte, c'è l'Hotel Angelo, e vado quasi tutte le sere, per dire che posso dire di conoscere la birra. Quindi senti il profumo dall'albergo, insomma, mi sembra di capire. Più o meno sì. E vorrei sottolineare due aspetti. La prima cosa è che in Italia cerchiamo sempre di fare delle eccellenze anche passando per la scorciatoia, nel senso che si inventano delle birre artigianali di dubbia come posso dire, struttura, di dubbia, se vogliamo chiamare ancora birra quelle bevande, mi viene voglia di dire così, e poi con dei prezzi proposti che ovviamente sono la ragione per cui queste bevande fanno appeal sul pubblico, perché nei ristoranti adesso è più di moda bere la birra da 15 euro piuttosto la birra vera a prezzi normali. Bene Claudio, abbiamo capito la sua puntura che ha fatto, ne ha fatte di pesanti. Allora, siccome ho Filippo Rindone del Mastro Birraio Birrificio Beltane di Granaglione, in provincia di Bologna, nota per una birra con farina di castagne, voglio chiedere a Filippo Rindone, Filippo, ma sono veramente così care le birre artigianali, da lamentarsi? Ho un sacco di sms su questo argomento. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'intervento. Ma io non so se siano relativamente più care o leggermente più care delle birre industriali. Poi a questo punto penso che ragionare su movimento industriale, movimento artigianale, specialmente in Italia, sia abbastanza relativo. So che sicuramente, quello che so è che la produzione, per quello che riguarda la birra artigianale, ha sicuramente dei costi molto diversi da quello che è la produzione di tipo industriale. Questo, diciamo, che dovrebbe essere chiaro a tutti. Quindi logicamente quando arriva sullo scaffale o quando arriva in un ristorante, mi riallaccio all'ultimo intervento, io sono contentissimo che vada di moda ora bere birra rispetto a bere vino, o meglio che il trend si sia spostato anche rispetto a birre di qualità. Beh, certo, ci sono moltissimi, è vero, ci sono moltissimi sommelier che intervallano, oddio, non è che, voglio rispondere un po' anche indirettamente al radioascoltatore di prima, non è che sia completamente escluso il vino, ci sono dei piatti che molte volte si abbinano molto bene con delle birre, e non dico meglio del vino, ma sicuramente possono essere alternativi, quindi io credo che durante un pasto possa fare anche piacere poter cambiare. Ma sentiamo Agostino Arioli sul discorso del prezzo. Agostino, tu cosa ne pensi? Siete veramente così cari? Ma sì, la birra artigianale è diciamo nettamente più cara dell'omologo industriale. Io trovo sempre, come dire, abbastanza ridicolo dover spiegare perché dovrebbe essere anche intuitivo. Comunque le ragioni sono la piccola quantità di produzione, quindi l'incidenza enorme dei costi generali, dei costi fissi, l'incidenza dell'accisa, ma non tanto dell'accisa direttamente, ma della gestione dell'accisa, che è costosissima, e più è piccola la produzione e più costa, la scelta delle materie prime, dove io e i miei migliori colleghi non badiamo a spese, ma cerchiamo quello che serve per dare carattere alla birra e non per toglierlo. E io non voglio parlare male della birra industriale, perché non è questo il punto, ma nell'industria si usano dei succedanei come il mais, che costano molto meno, noi non li usiamo. Usiamo il mosto d'uva, uso il lupolo che vado a selezionarmi personalmente in Slovenia e in Germania. Quindi questi sono alcuni dei punti per i quali la birra artigianale è più cara, certo, dell'altra, ma è giustificato e diciamo abbastanza evidente che debba essere così per ora. Bene, sentiamo Giuseppe da Caserta, un radioascoltatore. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Senta, io sono un gestore di un locale da diversi anni, sono un cultore di birra e in quanto disciplinato della mia clientela bere la birra nel mio locale, e ho creato uno slogan sulla birra, perché la gente beve una birra senza schiuma, e dico una birra senza schiuma è come un cielo senza stelle. Ritornando ai produttori italiani di birra, noi ahimè vorremmo mettere queste birre nei nostri locali, però non possiamo comprare una birra più di quando noi la vendiamo, che viene da una cultura estera di centinaia di anni, non vi dico neanche il paese, loro già sanno di quale paese sto parlando, non voglio fare pubblicità a questi signori, però noi abbiamo un problema di fondo, che è il gusto della birra. Non abbiamo mai sempre lo stesso gusto di una birra, perché loro da una cottura di birra e un'altra cottura di birra cambia il gusto, non sono ancora arrivati a una determinazione di gusto. Bene. Questo è fondamentale. E poi se questi signori tutti insieme si assemblano tra di loro e comprano le bottiglie tutte insieme, ovviamente hanno un costo minore. Va bene, grazie Giuseppe, abbiamo sentito altre punzecchiature, però abbiamo un altro mastro birraio del birrificio del Ducato. Bene, ora andiamo in Emilia, siamo andati in Sardegna, siamo in Lombardia e poi ancora in Emilia. Ora sentiamo Giovanni Campari, appunto del birrificio del Ducato, che tra l'altro anche lui produce alcune birre con prodotti, diciamo, italiani, territoriali italiani, che danno questo gusto molto particolare. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide, ciao a tutti i radioascoltatori. Volevo chiedere, tu mi sembra che producessi una birra al peperoncino, se non era un po' di anni fa. Assolutamente sì, la Verdi Imperial Stout. Ecco, ora hai altre birre così tipiche? Ma diciamo che noi siamo più orientati a fare birre da grandi bevute, cioè birre equilibrate, birre che non debbano per forza stupire per la loro complessità, ma che siano eleganti e facili da bere. Questa è un po' la filosofia del birrificio del Ducato. Senti, però allo stesso tempo ci divertiamo appunto utilizzando materie prime inusuali, soprattutto collaborando anche con artigiani del territorio. Mi viene in mente l'uso del caffè artigianale della torrefazione Baracco per fare la nostra Selly Brown Baracco. Senti Giovanni, tu prima che mestiere facevi? Ma io venivo dall'università, sono laureato in scienze e tecnologie alimentari, quindi ho incontrato il mio socio e quindi abbiamo cominciato. Quindi la passione ti ha portato a questo mestiere? Assolutamente, assolutamente. Ecco, io credo, brewer anch'io, come tanti. Io credo che questa sia, diciamo, il comune denominatore di quasi tutti i produttori di birra artigianale, o quasi tutti. Sentiamo Romolo dalla provincia di Teramo. Buongiorno Romolo. Buongiorno. Senta, io sono oltre, diciamo, sono un distributore di birra, quindi rifornisco fondamentalmente tutto il canale Horeca, i bar, i ristoranti, e non, oltre ad essere il presidente del gruppo Intesa, che è un'associazione che raggruppa dei distributori in Italia. Su cui, in merito a questo discorso, volevo dire una cosa semplicissima, che rischiamo in Italia, come facciamo spesso, di distruggere con tanta facilità anche quello che c'è di nobile. La birra è un prodotto molto nobile. In questi ultimi anni stiamo facendo praticamente con estrema facilità, apriamo birrifici a destra e a manca, siamo arrivati a circa 500 birrifici, senza dimenticare che per fare per esempio la birra il prodotto più importante è l'acqua minerale, e crescono birrifici come funghi anche in zone dove ci sono delle acque che non potrebbero essere, sicuramente sono acque di condutture, acque non mineralizzate, acque non particolari. Sì, Arriviamo al dunque. Quindi, secondo me, sì, è con troppa facilità che si sta facendo questa cosa, tralasciando, penalizzando quella che è la birra, perché poi la birra la dobbiamo far fare a chi la sa fare. Ci sono dei maestri birrai che fanno questo prodotto in un certo modo, e molte volte bevendo dei prodotti che non sono all'altezza, perché quelli che vengono fatti sotto un garage di casa e poi si trovano anche in dei locali, si rischia che chi beve birra non la beve più e torna a bere altre grazie prodotti. Grazie Romolo, anche qui, diciamo, ci sono grandi, grandi spunti, però bisogna anche considerare che tutti i prodotti hanno i buoni e i cattivi, evidente questo, e probabilmente molte volte la moneta cattiva scaccia quella buona da una norma, da una legge monetaria. Ma volevo leggere un sms perché secondo me è interessante, risponde anche a un radioascoltatore. Per fortuna il gusto non è sempre uguale, e io la penso come questo Mirko che ha mandato questo sms. Ma voglio tornare a Rindone, voi producete questa birra di farina di castagne essiccate, che ha avuto grande successo. Volevo chiedere quali altre birre voi producete così, magari tipizzate. Sì, noi facciamo 3-4 tipi di birra alla castagna e 2 tipi di birra al farro. Rilasciandomi all'ultimo intervento, mi permetto solo di sottolineare che per esempio il birrificio Beltane è nato nel 2004, quindi è l'anno prossimo, festeggiamo i nostri primi 10 anni di vita, usiamo acqua di sorgente, noi siamo a circa 800 metri sul livello del mare, e quindi l'acqua è pulita e perfetta per fare le nostre tipologie di birra che abbiamo scelto. Bene, grazie Rindone. Un'ultima battuta, lei prima cosa faceva? Io vengo anch'io dall'università, ho fatto esperienza in birrifici artigianali, inizialmente italiani, poi belga, e poi sono tornato per amore del territorio nell'Appennino emiliano e mi sono trasferito lì definitivamente. Bene, mi sembra che sicuramente sia per alcuni, non per tutti, sia stato uno sbocco professionale interessante in questo paese in cui appunto ci sono tantissimi problemi. È evidente che alcuni producono meglio di altri. Agostino, è così, no? Non sempre si può avere la qualità al 100%? No, assolutamente hai ragione, hanno ragione molti di quelli che hanno fatto degli interventi, diciamo così, critici. La realtà è che però su questi 500 microbirrifici ce ne sono alcuni, e non voglio dare una quantità, una percentuale, che sono ormai di rilevanza internazionale. Certo. Io adesso voglio dire, se mi invitano a dei festival in California o a fare il giudice o delle conferenze a Tokyo, come accade, credo che sia anche perché i prodotti che facciamo sono buoni, e non sono l'unico birraio italiano che ha questo certo tipo di visibilità e di popolarità. Bene, quindi l'ho detto prima, da fare. Molti hanno avuto riconoscimenti internazionali molto importanti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a Tutta Birra, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Ho veramente tantissimi sms, ne ho uno che secondo me è geniale, perché c'è un signore che ha scoperto come far tornare il turismo tedesco in Italia. I prezzi della birra in Italia sono un vero furto, diminuiamolo e riavremo i turisti tedeschi. Beh, mi sembra veramente una grande trovata questa. Sicuramente. Bene, abbiamo con noi due personaggi importanti del mondo della birra italiana. Abbiamo Lorenzo Dabove, in arte Quasca, che diciamo è stato un personaggio veramente molto importante per promuovere la birra italiana, anche perché è un grande degustatore, un esperto di birra a livello mondiale, e Teo Musso di Baladin, che è un produttore molto molto noto. Allora io vorrei cominciare da Dabove, al quale chiedegli un giudizio, lui che è diciamo un esperto internazionale, su dove sta andando la birra artigianale italiana. È la strada giusta, Lorenzo? Ah, ciao a tutti innanzitutto, buona giornata. Sì, guarda, penso che sta andando in una buona direzione, anche un po' sorprendente direzione. Io ricordo il grande maestro nostro, Michael Jackson, che morì nel 2007, io ho il grande onore di scrivere la parte italiana del suo ultimo libro, che uscì nel marzo 2007, lui definì l'Italia il paese con la più rapida crescita nel campo dei microbirrifici. Ed eravamo solo nel 2007, pensa adesso se fosse ancora vivo il grande maestro, cosa direbbe. E devo dire, innanzitutto siamo stati un po' i pionieri, io, Teo, che si sento al telefono e non sapevo che era collegato, lo saluto, e altri come Arioli, altri, abbiamo portato per la prima volta le birre italiane al prestigioso Festival di Londra nel 2000, e via via la birra italiana è arrivata, quindi esportata e conosciuta e apprezzata, addirittura pensa più apprezzata forse all'estero prima che da noi, ed noi siamo praticamente idolatrati, riconosciuti molto in America, ma anche in altre parti ormai, in Giappone, in Brasile, in Belgio stesso, pensa. Quindi è un momento in cui abbiamo una grande reputazione, e questa secondo me è una responsabilità che avranno i nostri birrai, di fare qualità, certo, e dare un'impronta made in Italy, perché finalmente abbiamo, okay, birre made in Italy. Questo è importantissimo, cioè caratterizzarla in questo momento. Prima di passare a Teo Musso, il quale io lo saluto perché è in attesa di una seconda figlia, quindi credo che sia lì abbastanza, come posso dire, in grande attesa, emozionato. Sentiamo Giovanni dalla provincia di Perugia. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei. Noi, avendo avuto la conoscenza di un giovane cuoco di Bevagna, Santi Sefur, abbiamo deciso di fare questa birra artigianale, partendo proprio dalla tradizione dei prodotti Qualità Umbri, in modo particolare l'acqua, che è eccezionale, per fare delle cotte dove vengono corrette poi con dei prodotti particolari della terra. Bene. Chi usa il farro, chi usa il castagno. Giovanni, andiamo al dunque. Al dunque, noi crediamo che la cultura della birra, che ha delle particolari caratteristiche, che fermenta in bottiglia, è un toccasana per il cuore, per l'alimentazione, per la microbiotica, e questo significa che la cultura non è basata sul sul prodotto e sul costo, ma proprio su una cultura della tradizione del territorio, e questo è importantissimo. È il segno del Made in Italy, il marchio del Made in Italy. Ma a proposito di salute, mi viene da ridere perché ho scovato una notizia davvero molto, molto curiosa, che la birra non rompe il digiuno pasquale ed è una, diciamo, una, come posso dire, una regola in Baviera, nata nel 1600 appunto da dai frati dell'ordine dei Minimi, detti anche Paulanti, i quali appunto durante il periodo del digiuno si permettevano di bere una birra ambrata, corposa e dal dolce sapore di malto tostato. È una birra che era capace di saziare e secondo loro non rompeva il digiuno, e quindi continua questa, diciamo, questa abitudine. Ma torniamo a Teo Musso, perché a Teo Musso voglio chiedere. Teo, da tutte le parti io sento questa lamentela: la birra artigianale italiana è troppo cara. Tu cosa ne pensi? Beh, intanto ciao a tutti, ciao Davide, ciao a tutti gli spettatori. E, allora, io penso, sintetizzo molto, penso che il fatto che la birra artigianale italiana abbia un prezzo leggermente più elevato delle birre della stessa categoria di paesi come il Belgio sia una cosa molto importante per lo sviluppo di un fenomeno in crescita, no? Perché le nostre produzioni sono tutte estremamente piccole, no? E quindi di conseguenza con costi estremamente più elevati. E questo gap di maggiorazione del prezzo ha permesso anche di fare molta e moltissima ricerca e creare prodotti completamente nuovi. Quindi tu dici che appunto è evidente che essendo delle strutture che producono poco hanno dei costi superiori agli altri. Ma ti volevo chiedere questo, l'altra accusa che ho sentito, che è arrivata da un primo radioascoltatore, ha detto sì, dice la birra italiana artigianale fa poca cultura al banco, oppure chi mesce birra fa poca cultura. Tu sei d'accordo su questo? Beh, diciamo che noi dobbiamo pensarci come in piena adolescenza, sono poco più di 15 anni che è nato il primo birrificio in Italia. Quindi, essendo un fenomeno così in fase adolescenziale, il fenomeno di interesse da parte del pubblico, no? Cioè diciamo gli italiani nei confronti di questa rinascita, no? In realtà è una cosa che poi è sbocciata negli ultimi 3-4 anni. Io penso che questa che ci voglia del tempo. Ci voglia del tempo perché le persone si avvicinino in modo giusto al prodotto, si crei una cultura che non fa parte del nostro territorio, c'è poco da fare, cioè nel senso che noi siamo un territorio di vino. No? Certo, quindi... è evidente, la cultura del vino è predominante, ma visto che ho parlato della birra non rompe il digiuno in Baviera, io voglio ricordare con grande simpatia che in Italia c'è una birra d'abbazia, ed è un'abbazia che è l'abbazia di San Pietro e Paolo, località Cascinazza, da cui prende il nome, prende il nome a Buccinasco appunto questa birra. Io lo ricordo perché c'è padre Claudio, veramente, che è un personaggio incredibile, che dà tutta la sua forza alla produzione di questa birra, quindi lo voglio ricordare con molto piacere. Tra l'altro io sono stato lì da loro a fare la birra in casa, no? C'è dentro proprio questa abbazia, e mi sono fermato per un po' di giorni anche a dormire lì, no? Quando loro erano nella fase proprio di preparto, per rimanere in tema, visto che sono qua in attesa della nascita di mia figlia. All'ospedale. Ti viene questo linguaggio. Lorenzo, a te chiedo, ma questo ormai è un marchio, la birra artigianale italiana nel mondo? Sì, assolutamente. Se mi permetti, volevo toccare questo argomento appunto della grande biodiversità che abbiamo noi. Io in questo momento, voi non immaginate, io sono seduto davanti a un panorama stupendo a Plan de Corones con Luca Sarf, e ho fatto ieri sera una esibizione da lui, che è pensato in un avamposto a Brunico, dove si pensava si bevessero solo Weizen o Helles. E invece ieri sera abbiamo presentato birre acide, birre una porter locale della Betzenbrauerei, che non conoscevo nemmeno Betzenbrauerei, cioè incredibile, cioè questa realtà ormai in Made in Italy si è portato in tutta Italia e sta coprendo tutta l'Italia. A me piace molto toccare la parola biodiversità. Noi abbiamo tra il Made in Italy uno dei più esaltanti, è quello che io chiamo birre a centimetro zero, apposta, non dico a chilometro. Abbiamo birrai che prendono le spezie, gli ingredienti, i vari tipi di frumento, di grano, lo prendo addirittura nel cortile di casa. Noi andando da sud a nord abbiamo birre con, non so, il basilico di Genova, la pesca di Volpedo, la caruba, il radicchio di Treviso, ma sto dicendo a caso e senza fare discriminazioni. Abbiamo il grano Senatore Cappelli, il grano Solima, e c'è chi usa spezie locali o che usa erbe del bosco, addirittura nemmeno il nome sappiamo, cioè, è fantastico. E poi questa biodiversità si è esplosa col legame, come diceva giustamente Teo, al quale faccio tanti auguri, e ovviamente per il legame tra il mondo della birra e il mondo del vino, che in questo momento ci sta dando una reputazione, una fantastica, come posso dire, apprezzamento in tutto il mondo. Pensa, scusa, che ad esempio il primo, ricordo il birrificio Bagley di Mara Calagone, sì, certo, che fu il primo a usare la sappa di Cannonau. L'abbiamo sentito prima. Ah, non lo sapevo. Sì, sì. Ti faccio una connessione io a questo punto, ti ringrazio Lorenzo, perché sicuramente ormai tra mondo del vino e mondo della birra ci sono molte connection. Teo, certo, Musso ne sa qualcosa, che ha usato sicuramente dei mosti, ma ce ne sono tantissimi altri. Poi è nata questa birra Parma, addirittura, che c'è un collegamento appunto tra Lambrusco Ceci e questa birra davvero eccellente, quindi ormai c'è anche lì una grossa connection proprio sul discorso del territorio. Bene, grazie anche a Lorenzo da Bove, li rimandiamo a fra poco, sia Marco che Antonella che hanno chiamato. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a tutta birra. Bene, sentiamo Marco da Firenze. Buongiorno Marco. Buongiorno Davide. Prego. Io sono responsabile di una birreria, diciamo, grande birreria artigianale inglese, che sì, utilizza acqua minerale naturale per fare le sue birre. Però sono orgoglioso di essere italiano. Volevo dire, come mai tutti questi microbirrifici italiani, che per fortuna ci sono, utilizzano tutti denominazioni inglesi? Perché, dato che sono made in Italy, invece di usare stout, ale o altre denominazioni, non lo utilizzano denominazioni italiane in tutto? Bene, guardi, sentiamo un suo conterraneo di un birrificio, anche questo molto importante. Sentiamo Moreno Ercolani del birrificio Olmaia. Buongiorno Moreno. Sì, ciao Davide, buongiorno a tutti. Ma perché usi le denominazioni inglesi, Moreno? Ma mi sembra una domanda poi fatta per caso, ma io nelle nostre birre, io addirittura in etichetta ho scritto birra chiara, birra ambrata, birra nera, quindi diciamo noi le denominazioni le usiamo un po' meno rispetto ad altri, ecco. Ma poi fondamentalmente perché non credo che ci sia una parola in italiano che sostituisca stout, in fin dei conti, o almeno, che ne so, ale significa alta fermentazione, quindi diciamo viene usato ale per dare un termine che si riferisce all'alta fermentazione. Diciamo che è fatto probabilmente per il mercato internazionale questo, perché se mettessimo forse delle denominazioni italiane probabilmente ancora avremmo qualche difficoltà. Comunque rimani con noi Moreno, che poi parleremo di qualche tua birra. Sì. Sentiamo Antonella dalla provincia di Pavia. Buongiorno Antonella. Buongiorno, io ho telefonato prima quando si parlava della... Un vostro ascoltatore parlava del fatto che queste birre non sono omologate, non sono tutte simili e non riescono a ripercorrere da un anno, da una produzione con l'altra, da una cultura con l'altra, gli stessi medesimi gusti. Io sono un agricoltore, faccio vino in Oltre Papavese, faccio una piccolissima produzione e mi vanto nella mia etichetta, nel mio sito, di non riuscire mai a fare il medesimo vino. Io partendo dal medesimo vitigno e lavorando nello stesso modo, perché quando si lavora artigianalmente e la prima componente è la passione, per arrivare a certi determinati risultati, non basandosi esclusivamente sulla chimica ma sulle proprie capacità e su quello che la natura ti dà, poi alla fine è difficilissimo poter fare il vino, certo, Coca-Cola o la birra Coca-Cola, e questo è un vanto. Sono con lei, sono decisamente con lei. E questo, mi lasci concludere, è anche il motivo per cui la birra artigianale, come il vino artigianale, e io ripeto, mi vanto di produrre un vino artigianale, costa di più perché si lascia tantissimo spazio alla natura, ai cicli stagionali e soprattutto alla manualità. Bene, grazie Antonella, abbiamo capito perfettamente il suo intervento. Grazie, io vado in Sicilia, ora vado da Luca Monica del birrificio Rocca dei Conti di Modica. Perché? Perché abbiamo sentito parlare di Carrube e io mi ricordo tanti anni fa di aver assaggiato forse la prima birra, una delle primissime birre di Luca Monica. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Da allora sono passati un po' di anni, ho visto che è diventato un vero e proprio birrificio, insomma. Sì, insomma, siamo un po' quello che anche insomma, nel nome stesso, Rocca dei Conti, vuole essere un po' il baluardo, un posto birrario, visto che Lorenzo ancora rimprovera, giustamente, ha ragione, una poca costanza nelle produzioni siciliane. Noi speriamo di essere un po' quelli che portiamo avanti questa cultura, insieme agli altri ovviamente, ce ne sono altri in Sicilia. E sul discorso della birra alla Carruba, ricordi benissimo, è un incontro con Franco Rudo della Buonaiuto. Sì. Sì. E in quell'occasione, proprio spinti da lui per legarci di più al territorio, per questa contagiosa creatività di fare delle cose legate a quello che ci circonda, ecco. Abbiamo realizzato questa birra alla Carruba, che oggi ha raggiunto anche una maturità. Forse anche attestata da Lorenzo, che l'ha dovuta bere in posti remoti, perché l'abbiamo bevuta posto insieme per la prima volta in Belgio, se si ricorda. Bene, grazie a Luca Monica. Io torno a Moreno Ercolani. Moreno, sì, qual è la tua birra, diciamo, che vedi più aderente al tuo territorio? Ma noi di sicuro abbiamo fatto, in fin dei conti abbiamo una sola birra che è effettivamente legata al territorio. Con i fiori, No, è una birra fatta con i cereali qui nostri della Val d'Orcia. Tutti conosceranno il Parco Naturale della Val d'Orcia, anche un sito dell'UNESCO, e sono dei cereali che vengono prodotti da un'azienda agricola qui vicino a noi, e noi li utilizziamo nella nostra birra che si chiama PVK, che è una blanche, quindi è una sorta di interpretazione nostra delle famose blanche, appunto, con l'uso di questo cereale crudo prodotto qui da noi. Poi come sai, insomma, noi il birrificio L'Olmaia è un territorio che più territorio di vino del nostro, credo che ci sia quello di Teo, che sia a Pari, insomma, che è nelle Langhe. Però ecco, noi a Montepulciano siamo a 10 minuti da Montalcino in linea d'aria, siamo nel comune di Montepulciano, quindi non potevamo non legarci anche noi a questo mondo. E ora un ultimo progetto che stiamo portando avanti, che richiede molta pazienza e molto tempo, è una collaborazione con una cantina appunto di Montepulciano, si chiama Salcheto. Nobile, praticamente, sì, praticamente stiamo facendo le nostre birre tutte maturate dentro alle botti dove prima è passato il salco, che è il vino di Salcheto, appunto. Quindi insomma, questa è anche una collaborazione. Bene. Che secondo me è interessante proprio a livello, diciamo, territoriale, a livello anche di collaborazione turistica, ambientale, perché comunque con loro stiamo mettendo su anche delle doppie visite, quindi visita al birrificio, visita alla cantina. Bene, insomma, state ricreando quello che ha creato l'enoturismo, in poche parole, più o meno. Sì, insomma, ripeto, è importante collaborare, certo, il territorio aiuta. Ma ovviamente noi siamo in un territorio, insomma, abbastanza famoso e fortunato, quindi questo lo dobbiamo. Ecco. Beh, io volevo ricordare che anche in provincia di Como ci sono 7, mi sembra, 8 birrifici che possono costituire benissimo un itinerario per i tanti turisti che arrivano in quell'area. Ma sentiamo Mohamed da Brescia. Buongiorno Mohamed. Buongiorno. Prego, buongiorno, veloce Davide, perché stiamo arrivando in fondo. Buongiorno Davide e a tutti gli ascoltatori. Gentilmente, per il popolo celiaco, sentite che si parla di tutti i tipi di birra, ma senza glutine esistono solo due tipi di birra che arrivano dalla Germania e hanno un elevato costo. Facciamo un appello a tutti i radioascoltatori, produttori di birre artigianali, di cercare anche questa strada. Grazie. In Italia non esiste. Sì, appunto. Grazie Mohamed. Cercheremo di fare un appello e magari qualcuno potrà rispondere. Sentiamo Davide da Verona. Buongiorno Davide. È caduto Davide. Sentiamo Walter dalla provincia di Modena. Buongiorno Walter. Buongiorno. Prego, prego, prego, parli. Complimenti comunque. Sì. Allora, io abito in un paese qua che è in linea d'aria a 60 km da Granaglione. Conosco Granaglione, conosco il produttore della birra. Sì. C'è un particolare che qua non si sono mai usati continui, se non organici, perché questa zona è di produzione di latticini, c'è l'aceto balsamico, eccetera. Qui noi abbiamo aria pulita, acqua minerale dentro ai rubinetti, non c'è inquinamento perché le fabbriche sono di ceramica, non sono inquinanti, e secondo me qua la birra non sarebbe bene semplicemente. Ah, io ho premesso. Grazie Walter, grazie, abbiamo già capito il suo messaggio del suo territorio, bene, territorio adatto. Sentiamo Orlando da Trieste, buongiorno Orlando. Buongiorno. Prego, 30 secondi Orlando. Oh, ok, ascolti, io chiamo da Trieste, avevamo una buona birreria qui a Trieste, la Dreher. Sì. No? Io ho fatto grandi viaggi in Europa e ho visto le birrerie anche nell'est Europa, e sinceramente mi sembra esagerato il prezzo che fanno qui in Italia queste birre. Bene, abbiamo capito, diciamo, da moltissimi radioascoltatori c'è questo appunto alle birre artigianali, abbiamo sentito il perché in molti casi dei costi elevati secondo il consumatore appunto di queste birre, e comunque il consumo continua perché sicuramente c'è questa grande attenzione, soprattutto le birre italiane, come dicevo e come hanno detto un po' tutti, hanno grande successo all'estero, hanno successo nei consensi internazionali, diciamo, dove ci sono degustatori a livello internazionale. Certo, credo che ci siano birre ovviamente che hanno un costo superiore all'altro, forse questo dipende anche dalla qualità e dipende anche poi anche dal successo che ottengono. Diciamo che lo stesso fenomeno può essere successo negli anni 70, diciamo primi anni 80, quando il vino italiano, diciamo, di qualità stava esplodendo, e anche lì sicuramente c'erano molti che si lamentavano appunto dei costi delle birre. Consideriamo che questi micro birrifici sono veramente molto ma molto piccoli, e vediamo se magari col tempo riescono anche a aggiustare il prezzo, perché appunto è un settore che tira e sta rafforzando il Made in Italy, anche se di una piccola, diciamo, piccola nicchia, anzi direi piccolissima, perché sicuramente la loro produzione che viene esportata è minimale, però è sempre caratterizzata dal Made in Italy. Quindi io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero intorno alle 10.30 e ogni giorno con la pillola alle 10.05 e alle 23.05. Buona birra da Davide Paolini.